con Claudio Ripalti, regista del film La Banda Grossi, in uscita in sala giovedì 20 settembre. Claudio, ben trovato. Grazie, grazie a te Federico. Ce lo presenti? Il film La Banda Grossi è una storia di brigantaggio marchigiano accaduta intorno al 1860 nella provincia di Pesaro Urbino. È una storia vera sulla quale io ho scritto una sceneggiatura originale per il cinema, un lungometraggio che uscirà nelle sale il 20 settembre. È un progetto cinematografico, come dire, alternativo, nel senso che è stato portato avanti tramite una ricerca fondi internazionale sulla piattaforma Kickstarter in partenza, alla quale poi si sono aggiunti dei finanziatori privati, e con un piccolo budget siamo riusciti a portare questa storia realmente accaduta sul grande schermo, la vicenda di Terenzio Grossi e i suoi compagni. Come l'hai scoperta e come hai deciso poi di trasporla cinematograficamente? Guarda, la vicenda nelle nostre zone era abbastanza nota, nel senso che era diventata una sorta di leggenda quasi, tramandata a voce, soprattutto dai signori più anziani. La prima volta da bambino, insomma. Circa 4 anni fa stavo cercando un soggetto per una sceneggiatura da lungometraggio. Mi è tornato in mente, insomma, le vicende di Terenzio Grossi e i racconti che avevo sentito, e ho pensato subito che avesse tutte le caratteristiche per poter essere trasposta in una sceneggiatura per il cinema. Per lavorare sulla sceneggiatura, a quali fonti hai fatto riferimento? Ma diciamo che è stato un insieme di fonti, nel senso che ci sono molti documenti sia all'archivio di Stato di Pesaro che in alcuni archivi parrocchiali. Queste fonti, diciamo, ufficiali si uniscono a quelle non ufficiali dei racconti, racconti molto spesso tendenti a leggenda, che si sono sentiti dire nella mia zona dai vecchi, che a loro volta, insomma, gli erano stati raccontati dai loro nonni piuttosto che dai bisnonni, insomma. Quindi le fonti sono un insieme di realtà, di documenti storici presenti negli archivi, piuttosto che anche leggende, storie tramandate oralmente. Senti, cosa hai voluto mettere in risalto di questa vicenda storica? Ma guarda, in realtà questo non credo sia un film storico, nel senso che a me interessava molto vedere, diciamo, da una prospettiva più umana, interessava capire cosa provassero sia questi contadini che si sono ribellati, divenuti poi briganti, e anche capire che cosa ha spinto la legge a occuparsi di questa problematica. Infatti nella vicenda troviamo il prefetto di Pesaro Urbino che, insomma, astutamente cercherà di risolvere questa problematica, che ormai era diventato, insomma, dopo quasi 2 anni di delinquenza, era diventata una faccenda davvero seria. Mi interessava capire che cosa ha spinto queste persone ad alzare la testa in un momento tutti quanti tacevano per le difficoltà e per insomma le condizioni di vita abbastanza difficili che avevano qui nell'entroterra marchigiano. E volevo capire più che altro, infatti il film si occupa più che altro di sentimenti più che della politica o della storia. Non c'è alcuna volontà revisionista in questo film per quello che è stato, per quella che è stata la faccenda risorgimentale qui nella provincia di Pesaro Urbino. Molto spesso questo pezzo di storia è stato trattato solo da un punto di vista esclusivo, e vuoi non vuoi le opere che ne sono derivate si sono schierate o da una parte o dall'altra. In realtà questa vicenda nel film La Banda Grossi viene vista da un punto di vista esclusivamente umano e non politico. Che tipo di uscita sarà? Il film uscirà nelle sale il 20 settembre, abbiamo una copertura a livello nazionale, usciremo per la maggior parte nella regione Marche, ma abbiamo anche un cinema a Roma, uno a Napoli, usciremo anche in Piemonte e se tutto va bene dovremo avere un altro paio di cinema in Sardegna. Quindi direi che per essere un film indipendente abbiamo una buona copertura sul territorio. In chiusura ci lasci dei riferimenti web per saperne di più? Certo, il sito internet è www.labandagrossi.com e si può trovare la lista dei cinema in cui verrà proiettato il film sul sito della nostra produzione, ovvero cinestudio.it. C'è un form dove si può inserire la propria località e si vede il cinema più vicino, dove poter vedere la Banda Grossi. Bene. Allora, ricordiamo il film La Banda Grossi in uscita in sala giovedì 20 settembre. Un saluto e un ringraziamento a Claudio Ripalti, il regista. Claudio, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a te, a presto.